Vuoi firmare i tuoi contratti e documenti in modo sicuro e da qualsiasi postazione? Usa la firma digitale di Aruba. È l'equivalente di una firma autografa di fronte ad un notaio. Ha quindi pieno valore legale. Attivala adesso su aruba.it. Radio Next. Viaggio nel nuovo contesto digitale di Pepe Moder. È appena ricominciata la scuola questa settimana, non è stato facile, ci sono già ovviamente le polemiche, ci sono già le discussioni attorno a questo argomento, ma le imprese hanno già incominciato a ripartire e a lavorare sul mercato ormai da settimane. Abbiamo un ospite di eccezione oggi, il professor Luciano Floridi, è ordinario di filosofia ed etica dell'informazione all'Università di Oxford ed è soprattutto il direttore del Digital Ethics Lab. E do subito il benvenuto al professor Floridi, buongiorno. Buongiorno a voi, grazie per l'invito. Allora, professor Floridi, l'abbiamo chiamata qui perché io ho come dire, incominciato a dare un quadro d'inizio sulla situazione sociale che ovviamente impatta non solo sulle persone, ma impatta su tutto il sistema. Allora, questa pandemia, che pare che abbia una recrudescenza, senza pare, ha una recrudescenza effettiva sui mercati, sulla società, sulle persone, come sta cambiando e come ha cambiato la trasformazione digitale che era già in atto in alcuni paesi con una certa velocità, in altri con un'altra? È stata un po' una sorta di volano, di molla, di calcio, se vogliamo essere più brutali. Il digitale già stava facendo tante trasformazioni e è che non era stato percepito ancora forse in maniera così intensa, così diffusa da tutta la società. E quindi a questo punto oggi, invece di parlarne tra pochi esperti in qualche convegno, magari con qualche raro politico illuminato, oggi è un dibattito per tutti. Abbiamo sostituito la biosfera, cioè quel mondo in cui ci vediamo, ci incontriamo, ci stringiamo le mani, con l'infosfera, cioè con lo spazio delle informazioni. Questa trasformazione spero poi tornerà a essere un pochino più normale, ma è un passo fondamentale nella nostra storia, tra virgolette. Ecco, su questo forse magari poi ci torneremo, ma siamo poi entrati finalmente nel XXI secolo. Stavamo un po' a rilento, cercavamo ancora di restare nel Novecento. La pandemia col digitale ci ha lanciato violentemente nel XXI. Ma professore, questo individualismo che è sempre più spinto, in questo caso è anche un individualismo dovuto alle circostanze, può essere un individualismo etico? L'individualismo è sempre un po' etico quando si fa domande su chi siamo, chi vogliamo essere, quali virtù, quali vizi, insomma, una sigaretta in più o in meno, una passeggiata in più o in meno, oppure per essere un po' più seri, chi voglio essere, cosa voglio fare, cosa voglio contribuire al mondo, fino a che punto voglio spingere le mie esigenze, i miei desideri rispetto a quelli degli altri. Detto questo però, l'individualismo è soltanto una delle due gambe su cui funziona l'etica nel mondo, perché l'altra è quella sociale, quella come stiamo insieme, a cosa serve diciamo, ad esempio lo Stato, ma anche tu, di che cosa hai bisogno. Allora basta riflettere un attimo sul nostro lavoro quotidiano, quasi qualsiasi lavoro ha questo momento etico. Se uno sta alla cassa di un negozio o fa magari l'infermiera di questi tempi, certo, l'infermiere, dall'avvocato al medico, dall'ingegnere all'operaio, eccetera, tu fai qualcosa per qualcun altro. Ecco, questa visione del per qualcun altro ci ribilancia l'individualismo, non è soltanto io, ma è anche tu. Allora, solidarietà, ad esempio, è una questione che controbilancia magari l'eccessiva focalizzazione anche sulle proprie virtù, ma sulle necessità e i bisogni degli altri. Però l'uomo, una parte della società, quindi una parte degli uomini, vede la tecnologia come una barriera e si pone di fronte alla tecnologia con uno spirito non aperto, non di assorbimento, quindi per imparare, sperimentare. Forse questo è un periodo dove possiamo anche permetterci di fare tanti errori che verrebbero perdonati, ma la rifugge o addirittura la nega o la rifiuta. Ecco, come fare allora a fare in modo che le persone che devono costruire socialità siano in grado di utilizzare la tecnologia come viatico per ricostruire una nuova società e una nuova socializzazione? Ma c'è una risposta a questa domanda che da 55 anni è un po' triste, cioè è quella generazionale. In realtà poi la tecnologia nuova dà fastidio a chi non c'è nato dentro. Chi c'è nato dentro la trova normale. Certo. Io ho trovato normale le automobili, mia nonna le trovava ancora letteralmente una cosa un po' strana, perché aveva visto i cavalli, certo, a Roma. Ecco, allora oggi il digitale oggi a chi non è diciamo, estremamente flessibile, chi non ha passione, chi non ne fa una parte della propria esistenza, viene vista come una cosa un po' fastidiosa, una necessità di cui non si può fare a meno, ma che, alla quale non si vuole bene. Non so, per tornare al liceo, un po' odi e t'amo, per un po' con Catullo. Allora, in questo contesto, ecco, chi ci nasce dentro lo troverà normale, avrà le aspettative di chi non si meraviglia più che ci sono le automobili per strada, non si meraviglia che ci sia Netflix. Certo. Detto questo, questa è la risposta triste, diciamo, la generazione, noi passeremo, arriveranno altre e altri. Poi c'è invece quello che noi possiamo fare affinché queste altre che stanno arrivando trovino la vita un po' più facile, cioè cosa ci stiamo disegnando che loro troveranno normale? Ecco, qui io vedrei un momento di entusiasmo, cioè la capacità di dire guarda che questa tecnologia non la devi soltanto subire, la stai disegnando, la stai costruendo tu, stai tu decidendo per altri che arriveranno dopo te che cosa troveranno buono, cattivo, normale, efficace, disfunzionale. Allora immaginiamo di nuovo con le automobili, piccola analogia, che cosa avremmo potuto fare se la generazione passata avessero pensato un po' al traffico, alla circolazione, all'inquinamento, invece di lasciare semplicemente tutto questo a noi. Ecco, io vorrei tanto che la generazione attuale pensasse un po' a quella futura e decidesse di essere un pochino più intervento, cioè di lavorare un po' meglio sul design. Questa è una difficoltà che molti manager hanno, quella non solo di lavorare su se stessi, ma anche di lavorare con le proprie risorse. C'è una forte necessità, forse dovuta anche al fatto che per mesi siamo stati in lockdown, siamo stati lontani dagli altri, una forte necessità di controllo, c'è una forte necessità, desiderio di lavorare insieme fisicamente, c'è questo richiamo adunata agli uffici, a tornare all'interno delle postazioni di lavoro. Ma dal suo punto di vista, secondo lei, questo è un atteggiamento che deve essere superato e deve essere ripensato, oppure è effettivamente una trasformazione che sta passando, no? Come passare da un vagone a un altro di un treno, ma si arriverà poi, si ritornerà ad essere sociali come eravamo prima, lavorando di persona? Non credo che torneremo a come stavamo prima, e soprattutto nel mondo della produzione, dell'industria, quello reale, quello che crea ricchezza. Noi abbiamo creato ricchezza in una versione veramente molto novecentesca, dicevo appunto siamo entrati nel XXI secolo, adesso con un po' di violenza. I secoli si sono disallineati, siamo entrati nel Novecento molto tardi con la Prima Guerra Mondiale, sì. Oggi entriamo nel XXI secolo un po' tardi con la pandemia del digitale a braccetto. Ecco, questi due elementi faranno sì che questioni, ad esempio, nel momento della produzione di fiducia, affidamento, progettualità, delega delle responsabilità e quindi anche flessibilità. Io sento molto parlare di questo smart working come se fosse il passaggio da una cosa all'altra, appunto. Non è così, bisogna combinare tutte e due, ovviamente. La mia sciocca battuta qui è: fragola o limone? Non posso avere tutte e due, digitale o analogico, a casa o in ufficio, ma tutte e due, cioè bisognerà vedere chi sarà brava e bravo a mettere tutte e due insieme. Allora già si faceva un po', oggi bisogna farlo ancora di più, tornare indietro sarebbe perdere un'enorme opportunità e soprattutto perdere in competitività perché altri lo stanno già facendo. Allora in questo modo l'Italia, che è un paese molto a rete, molto distribuito, potrebbe avere paradossalmente un vantaggio storico, cioè avere già preparata qualcosa che è lì, no, una distribuzione a rete, ad esempio di vari centri, di piccoli borghi, si parla molto di questo, quando altri paesi invece sono molto più centralizzati, pensiamo tanto agli Stati Uniti. Ecco, su questo si può lavorare molto. Nella produzione, nella manifattura, dove l'Italia, insomma, manifattura di trasformazione e manifattura di produzione da materie prime, l'Italia comunque gioca un ruolo importante in Europa. Come deve essere ripensato questo modello di business, di lavoro, questa catena del valore che vede sempre di più il cliente finale, che sia business che sia consumer, poco importa, vicino avvicinarsi al produttore? Ecco, qui non sta certamente al filosofo, io sconsiglierei a tutti di dare retta al filosofo in questioni di economia. Strategicamente come società, diciamo, una visione un po' lunga e di distanza forse aiuta come elemento tra i tanti. Ecco, qui c'è da dire una cosa che è semplicemente conferma di quello che i grandi manager sanno benissimo. Oggi ancora di più, e sarà sempre più così, sarà una questione di qualità, di altissima qualità, e questa altissima qualità si raggiunge con moltissima intelligenza. La gestione dell'intelligenza si fa attraverso il digitale. Allora, 1, 2, 3, qualità, intelligenza, digitale, è quello che strategicamente il CEO, il manager, chi crea visione del futuro, di essere inclusive e poi nel particolare, diciamo, in quella produzione manifatturiera piuttosto che un'altra. L'altra cosa la metto forse in luce, e che sarebbe una cosa buona anche soprattutto per l'Italia, che oggi essere una grande azienda internazionale non vuol dire essere grande, vuol dire essere una grande azienda, cioè anche una piccola impresa. Io porto l'esempio un po' paradossale di chi produce magari i lacci per le scarpe da ginnastica, ecco, si può essere i primi al mondo di produzione dei lacci di scarpe da ginnastica, perché magari li hai fatti con il LED, si colorano oppure cambiano, sciocchezze varie. Certo. Sono come dire, differenzianti sul mercato. Ecco, quello, allora diventi, tu con la tua azienda magari di 10 persone, diventi il leader internazionale, per quel prodotto. Ecco, specializzazione, altissima qualità e quindi valore aggiunto che è dato da il di più in termini di funzionalità, intelligenza che uno riesce a porre nel prodotto, questo fa la differenza. Oggi pensare che si possa produrre, ad esempio, un normale acciaio invece che acciai di tipo super specializzato, sì, è ridicolo. L'acciaio normale lo producono in Cina a pochissimo prezzo e a costi che sono imbattibili. Certo. Allora è inutile cercare, ad esempio, di fare che concorrenza, ad esempio, alle linee aeree meno costose, cercando di essere ancora meno costosi. Casomai fare una linea aerea soltanto dedicata a chi deve viaggiare magari da un punto all'altro in poche ore, eccetera. Ecco, su questo, e ho fatto due esempi che spero essere un po' vicini. Molto, molto chiari, professore. Ecco, molto chiari per chi ci ascolta, senza menzionare nessuno. E ecco, su questo bisognerebbe avere una visione di coraggio. Allora, a quei tre ingredienti che avevo messo un po' così in vista, e cioè l'altissima qualità, il prodotto di origine controllata e così via, l'intelligenza che ci sta dietro e il digitale che permette tutto questo, ci vorrebbe in realtà anche un momento di spina dorsale, cioè il coraggio della fiducia. Certo. Siamo in grado di farlo, questa cosa posso investire, posso rischiare qualcosa. E quindi l'ultimo punto, se mi permette, certo, è una società che permette di avere il coraggio della fiducia senza essere irragionevole. Cioè io quando questo coraggio della fiducia sull'investimento, sulla produzione, sulla formazione del mio personale, su qualche cosa magari anche un po' a rischio che può tornare molto o può anche perdere molto, la società mi aiuta oppure no? Ecco, la società che aiuta l'imprenditore e l'imprenditrice a rischiare un po' di più su queste questioni, sulla qualità, l'intelligenza e il digitale, è la società in cui uno vorrebbe vivere, come qualcuno che vorrebbe far qualcosa. Su questo mi sembra fondamentale. Se noi fossimo, vedi, 55enne del sottoscritto, a parlare ai 55enni del momento e a spiegargli tutto questo, è che io sarei tanto felice. Purtroppo vedo che la nostra classe politico-imprenditoriale non pensa in questi termini, non abbastanza. Ma quindi se venisse un marziano oggi sulla Terra e la incontrasse e le chiedesse cosa sta succedendo nelle aziende e nei mercati, lei che cosa gli risponderebbe? Io risponderei che c'è una sorta di tensione tra il vecchio e il nuovo, c'è sempre stata ma oggi ancora di più, tra chi pensa che si possa continuare a fare come prima senza cambiare nulla, aggiungendo un po' di verde e un po' di blu, io li chiamo così, cioè un po' di digitale e un po' di sostenibilità, sì, come se fossero due mani di vernice, un po' una veneer, ma tanto poi il business è lo stesso, e chi invece oggi vorrebbe trasformare dall'interno e fare del verde e del blu il business, non qualcosa che il business deve aggiungere un po' di più. Qui la battuta è non è la ciliegina sulla torta, è la torta. Allora al marziano bisognerebbe spiegargli, guarda, c'è chi oggi questo non lo capisce e pensa che il verde e il blu, digitale e sostenibilità siano la ciliegina sulla torta e sono i perdenti, e chi invece ha capito che è la torta e sono i vincenti. Speriamo che i vincenti vincano veramente. Ma secondo quello che ultimamente ha scritto Hobsbawm, che dice che siamo un po' vicini a quella che, o simili, insomma, c'è una situazione simile a quella che era l'Europa e il mondo dei primi anni del Novecento. Secondo lei c'è un po' questa decadenza in questo momento che potrebbe portare, questa decadenza etica e morale che potrebbe effettivamente portare a una revisione completa dell'organizzazione, come dire, non solo economica ma anche sociale del mondo, anche grazie o per colpa di questa pandemia? Ma abbiamo visto i rischi nel passato, quindi una delle ragioni per cui si dovrebbe studiare un po' di storia è per capire appunto le cose che abbiamo sbagliato e quelle che abbiamo azzeccato in passato. Poi non lo fa nessuno, ma insomma l'idea che la storia sia una grande maestra sarebbe questa. Cioè i rischi sono reali. Io quello che mi dispiace sentir dire, e quindi concordo, poi vorrei aggiungere anche una nota positiva, certo, è che le persone che dicono tanto non c'è niente da perdere, faccio questo, non c'è niente da perdere, vedi ad esempio il recente referendum ora, certo, non è così, le persone non hanno idea di quanto c'è ancora da perdere, c'è da perdere tutto, c'è da perdere la democrazia, la stabilità economica, certo, c'è la libertà, c'è da uscire semplicemente dal G7. Ora ricordiamocelo, grandi civiltà del passato, vedi Egitto, Grecia e così via, non esistono più in quei contesti, in quei temi. Non parliamo più della Babilonia come se fosse così, la New York di oggi. Ecco, allora ricordiamocelo quanto c'è ancora da perdere, e quindi quelle lezioni del passato cerchiamo di assorbirle bene, perché, e questa è la nota positiva, non sta scritto da nessuna parte. La storia non è una serie di Netflix che tu cerchi di indovinare come va a finire. La scrivi tu. La scrivi tu oggi in tante mille modi e rivoli, ma è letteralmente un uncinetto che sei tu a comandare. Poi, siccome sono tanti lì a tirare i fili, ovviamente uno si sente un po' limitato, limitata, ma non è vero che ci sia già, come dire, gli episodi già scritti, cerchiamo di indovinarli. Io ogni tanto sento questi futurologi come se l'ultima è stata una grande azienda, perdonami la battuta, il professore ci fa una bella intervista su come sarà il mondo tra 30 anni. Ecco, tornando proprio a quello che dicevi tu, ecco, tu immagina se qualcuno nel 1930 avesse cercato di indovinare il mondo nel 1960. Le sciocchezze che avrebbe detto. Cioè, un'altra guerra mondiale, una bomba, due bombe atomiche, la guerra fredda, stava per arrivare in Vietnam. Nel 1930? Ecco, allora oggi smettiamo di cercare di prevedere il futuro, gli scenari sono fondamentali, ma cerchiamo di costruirlo, perché poi alla fine arriviamo dove avremmo iniziato a camminare. Ecco, su questo mi sembra fondamentale. Quindi io sì alla cautela, ma anche sì alla possibilità di mandare le cose nella direzione giusta. Allora, chiudiamo con una domanda ad un filosofo di economia dell'organizzazione. Sempre dal suo punto di vista, che è, insomma, è anche privilegiato, e poi magari ci mette dentro anche una spiegazione di che cos'è questo Digital Ethics Lab che lei dirige. Mi piacerebbe capire come vede l'evoluzione delle organizzazioni aziendali. Io su questo veramente adesso azzardo una cosa. Ecco, vedi 1930, 1960. Beh, però qualcuno ci ha scritto un libro, 1984, non è che poi ha avuto delle visioni incredibili, quindi qualcuno... Allora, speriamo bene. Allora, incrociando le dita che tra 30 anni non ci risentiamo, e lei mi dice, guardi le sciocchezze che ha detto 30 anni fa. Ecco, azzarderei questo. Secondo me oggi, in un contesto appunto in cui si parla sempre più di intelligenza distribuita, di capacità, di skills, e non soltanto quelli soft, di cui ce n'è in sovrabbondanza, ma di quelli hard, ecco, io se fossi un imprenditore, un'imprenditrice, guarderei soprattutto a chi lavora con me. Sì. Poi la chiamiamo forza lavoro, il capitale umano, le persone. Ecco, quello è un valore che tu difficilmente ricostruisci. Allora, ogni tanto ricordo, basti pensare ai costi di turnover. La gente non se ne rende conto, non ci pensa, ma se un'azienda cambia costantemente il personale, i costi di quel turnover sono enormi. Allora, tu immagina la fidelizzazione della tua forza di lavoro, o meglio, dei tuoi collaboratori e delle tue collaboratrici, che restano con te anche quando l'azienda accanto magari può offrire qualcosa di più interessante, la nuova startup che offre magari uno stipendio col 10% in più, ma dice no, io resto qui perché qui si lavora bene, ecco. Ma il ricambio non è anche cultura, non è anche crescita, non è anche nuovi spunti, nuovi stimoli? Assolutamente, questo vuol dire cura del proprio capitale umano, cioè, così come tutto quanto il capitale in genere, se tu lo lasci lì a non fruttare, l'inflazione te lo distrugge, stesso per il capitale umano, ma questo è un, come dire, è un e anche, non un al contrario, cioè non è un non è appunto o fragola o limone per il giusto. Certo. Allora, il capitale umano oggi che noi vogliamo curare, tenere, incrementare, arricchire, quindi non soltanto formazione, ma anche quel senso di partecipazione, di essere veramente nel team, questo non è fondamentale, e lo si può fare in grande, larga scala. Una piccola battuta, io lavoro molto con queste grandi aziende digitali americane, eccetera, e io ho visto i miei studenti, piccolo lavoro, ecco, parliamo del Digital Ethics Lab, abbiamo questi 20 studenti ogni anno, 20-30, insomma, di master, che poi alcuni, un terzo di loro va nell'industria, e li ho visti appunto muoversi in termini di attrattività, di interesse, non tanto per il grande stipendio, cioè anche quello ci mancherebbe, ma anche per il valore dell'azienda, la sua, tra virgolette, filosofia, chi e fa cosa. Se io vado in giro a dire sono di quell'azienda, mi piace come identità, mi sento veramente ripagata, ripagato, oppure faccio sì, lavoro per Facebook, oppure, ecco, allora io li ho visti muoversi letteralmente da Facebook, quando Facebook era molto attraente, o se vuoi ancora prima Google, Facebook, oggi né Google né Facebook, ma le start-up che sono molto più verdi, molto più diciamo, innovative. Ecco, su questo c'è da riflettere, perché niente è paragonabile a quel capitale umano, il resto lo ricostruisci, vedi Germania post seconda guerra mondiale, vedi Italia post seconda guerra mondiale, cioè un paese bombardato, letteralmente azzerato, tu lo ricostruisci con il capitale umano, ma senza capitale umano non c'è niente da fare, puoi gettare miliardi e miliardi di fondi ovunque e si arrivino, anche dai marziani, e il suolo, la ricchezza di quel paese non farà abbastanza per generare reale innovazione, reale ricchezza, reale diciamo, crescita. Ecco, su questo io non credo che abbiamo abbastanza enfasi, e soprattutto in Italia mi pare che stiamo letteralmente smantellando il nostro interesse per il capitale umano. Vedi, no, smantellamento della scuola, dell'università, della formazione, dell'idea che gli hard skills siano fondamentali, l'idea appunto che tutto comunque possa essere esternalizzato, outsourced, non è così. È lì che si perde la battaglia e quindi la guerra in termini lunghi di competitività internazionale. Su questo io mi senti particolarmente fermo, perché è fondamentale. Era Luciano Floridi, professore ordinario di filosofia ed etica dell'informazione all'Università di Oxford, ospite oggi a Radio Next, che ringraziamo. Grazie mille, professore. Grazie a voi. E come sempre la versione estesa di questa straordinaria e interessantissima intervista sarà a vostra disposizione da lunedì. Noi, come ogni settimana, ci incontriamo la domenica alle 13.45 per parlare di trasformazione digitale e di modelli di business. Per qualsiasi informazione, curiosità, domanda o richiesta, non fate altro che scrivermi alla nostra mail radionext@radio24.it. Un saluto a tutti voi da Pepe Moder, ci vediamo la prossima settimana o in podcast. Se sei un'impresa o un libero professionista, hai bisogno della PEC per attivare il tuo domicilio digitale, dove riceverai tutte le comunicazioni della pubblica amministrazione. Scegli la PEC preferita dagli italiani. Attivala facilmente su aruba.it.